siamo in collegamento con Davide dei lavoratori precari e non precari dell'Istat, che già da venerdì sono in mobilitazione. Ora vi trovate davanti al Parlamento, vero? Sì, siamo davanti al Parlamento, abbiamo chiesto un incontro a alcuni gruppi parlamentari di maggioranza di opposizione. E la delegazione ora sta riferendo insomma l'esito dell'incontro, che ovviamente è abbastanza negativo. Tutti ovviamente si fanno sono preoccupati della situazione dell'Istat, ma in realtà non c'è nulla da fare. Il problema viene da ulteriori tagli che ci sono in questa finanziaria, a dispetto del fatto che la precarizzazione in istituto è già altissima, e quindi tagli di bilancio che vedranno addirittura chiudersi alcune indagini, quelle istituzionali, per esempio quelle che producono dati su occupazione e disoccupazione, giusto per fare un esempio. E tra l'altro nella finanziaria c'è anche previsto il blocco delle riassunzioni. Sì, ovviamente veniamo già da 3 anni di blocco delle assunzioni, ora c'è questo nuovo blocco del turnover a tempo indeterminato, questo sì a tempo indeterminato, il che significa che nel pubblico impiego, e la ricerca pubblica non fa eccezione, si continuano a fare dei licenziamenti camuffati, cioè la gente va in pensione ma non viene sostituita, e alla forza lavoro che rimane, che è sempre più precarizzata tra l'altro e quindi altamente ricattabile, si chiedono dei ritmi lavorativi assolutamente insostenibili, con perdita quindi anche della qualità dell'informazione statistica. D'altronde siamo sotto l'occhio del ciclone da anni, c'è una perdita di credibilità dell'istituto e le cose non sono mai scollegate. E quindi questo potrebbe essere, diciamo, a lungo periodo l'effetto più grave, più drastico di questi tagli, proprio diciamo mettere veramente in pericolo la ricerca statistica in Italia? Ma guarda, ti faccio un esempio piccolo, se c'era un fiore all'occhiello nella politica degli ultimi anni dell'istituto era stata la ristrutturazione dell'indagine sulle forze di lavoro, che produce appunto i dati sull'occupazione, sbandierato a più non posso, tutte le parti, finalmente l'Istat si dotava di una rete di rilevatori sul campo, sul territorio propria, tramite 300 rilevatori e non tramite la solita rete di rilevatori comunali, che tanti problemi causa l'Istat, perché spesso i comuni affidano questo incarico a gente che è già sovraccaricata. Quindi questa era l'iniziativa, 300 lavoratori con contratto di collaborazione per una rete di rilevazione propria, e notizia del giorno è che i tagli incideranno sulla rete di rilevazione. Quindi con lo sperpero dei soldi pubblici, se parliamo di miliardi, di molti miliardi, che ci sono voluti a mettere su tutto questo impianto. Quindi anche una politica un po' miope da parte anche della dirigenza d'istituto. Ecco. Ho capito, bene, voi quindi proseguirete nella mobilitazione fino a una risposta più o meno definitiva? Sì, siamo sempre in assemblea permanente, ci sono interi servizi che ovviamente non portano a compimento il loro lavoro, per la prima volta domani non usciranno dei comunicati perché non sono stati prodotti i dati, si rende conto della vita dell'Istat, è la prima volta che succede una cosa del genere, e lo stato di agitazione continua. È ovvio che ci siamo mobilitati dinanzi a un problema, diciamo, contingente che diventerà strutturale come quello del bilancio, però le questioni a questo punto diventano anche molto più grosse, la sostenibilità della quantità di lavoro precario, siamo più di 1 su 5 i precari in istituto a tutti i livelli, da ricercatori a collaboratori tecnici. E quindi sì, la situazione è grave e si pensa ad altre iniziative di un certo rilievo.